un po' di roba come piace a me. Perché sono stufo della situazione attuale del rap. Non è così che intendo questa roba. Sarò all'antica ma non capisco certa roba nuova. Più che hip hop mi sembra pop. Mai visto i video, tutti vestiti a modo e nel mio stereo. È da un po' che non trovo buona shit. Solo in pochi si salvano, tipo i Cypress Hill. Ma il resto no, ma tutti con la macchinella. Chi è che balla? Che tristezza, ma che ci vuoi fa? Nel 2000 che sarà? Senti qua, ma è inutile. Io non mi ritrovo in questo rap fatto solo per le classifiche. È da un po' che io avverto questa sensazione. È la mia condizione, stato di depressione. Se anche tu la pensi come me, allora forse una speranza c'è. Se anche tu la pensi come me, allora ascolta un po' di buon rap. Se anche tu la pensi come me, allora forse una speranza c'è. Se anche tu la pensi come me, allora ascolta un po' di buon rap. Senti qua, senti qua, senti qua. C'è la nostra scena, mamma mia, venuta su a filmini nella testa. Questi rapper della fantasia, situazioni al limite, tra il comico, il drammatico e l'impossibile. Ma che cazzo parli di business? È già tanto che vendi 3 copie di quel tuo mixtape. TPT, amico, guarda la realtà, perché avanti così proprio non si va. Vuoi fare il tipo della strada, ma vai a casa, va. Parli da G e poi giri nella K. Niente Cadillac, niente Benz o Ferrari, ma per piacere strani. Se proprio mi filmi in testa, fatti un trip, ma lascia stare i beat e il mic. Se anche tu la pensi come me, allora forse una speranza c'è. Se anche tu la pensi come me, allora ascolta un po' di buon rap. Se anche tu la pensi come me, allora forse una speranza c'è. Se anche tu la pensi come me, allora ascolta un po' di buon rap. Senti qua.